Quindi in pratica il mio lavoro consisteva nel realizzare uno spaccato dello spettacolo di questa compagnia, ma soprattutto del loro rapporto e del coinvolgimento del quartiere in queste serate, in questo spettacolo. Quindi in pratica è un documentario che alterna un po' la vita di quartiere e soprattutto il modo in cui gli abitanti appunto hanno reagito alla partecipazione di questo spettacolo. Che impressioni hai ricavato? Ma è stata una cosa incredibilmente interessante, tanto per cominciare perché il Quartizzolo è una realtà incredibile, c'è un materiale umano fantastico, ogni persona che si incontra sembra veramente adatta a farci un documentario solo su di sé. E poi è stato veramente bello conoscere questa compagnia, vedere come riescono i loro spettacoli a unire tante cose, a unire la letteratura, il teatro appunto, ma anche il cibo ha un ruolo fondamentale in questo spettacolo, è anche uno strumento di condivisione che unisce poi lo spettatore, perché alla fine di ogni spettacolo appunto viene cucinato del couscous e offerto a tutti quanti, che vengono poi invitati appunto a parlare anche delle proprie storie, quindi c'è uno scambio costante di storie e di vissuto, e è molto bello vedere poi appunto quanto è diversa l'umanità che partecipa a questi spettacoli. Cioè gente diversissima che durante appunto lo spettacolo è unita da questa esperienza ed è molto bello, è stato molto bello assistere a tutto questo. Com'è stato il rapporto con loro? Loro sono una compagnia molto particolare. Io inizialmente non sapevo bene cosa si aspettassero da me, quindi ho provato a fare qualche domanda, ma vedevo che loro si fidavano, in un certo senso volevano appunto che io gli restituissi un progetto attraverso il mio sguardo e attraverso le mie impressioni. Quindi sono diventato una sorta di loro ombra e si è creato un rapporto in cui io li seguivo in maniera silenziosa e poi alla fine appunto ho cercato di essere il più fedele possibile al lavoro che hanno fatto e ai loro intenti, e questo sono riuscito a capire soprattutto dal tipo di domande che loro ponevano agli abitanti, perché appunto io ho fatto la regia di questo documentario, però poi in realtà ciò che veniva chiesto agli abitanti erano sempre loro a deciderlo, insomma. Quindi è stato un rapporto molto bello, soprattutto nel momento in cui ho avuto un buon riscontro da loro, nel momento in cui gli ho fatto vedere questo documentario. Chiaramente sarà una proiezione alla tua presenza? Sì, sì, ci sarò anch'io, proiezione all'aperto, in uno dei cortili del Quartizzolo. Ci sarà modo quindi anche di interloquire con il pubblico? Sì, sì, assolutamente sì, ci sarà anche la compagnia, prepareranno da mangiare. Insomma, sarà un evento aperto su prenotazione, bisognerà prenotare all'indirizzo del teatro, però sì. Che percorso farà dopo la presentazione al Quartizzolo? Non lo so ancora, io appunto l'ho realizzato proprio, immaginato esclusivamente per questa sera. Proprio oggi parlavo sia con la compagnia che con Antonino Pirillo, direttore del teatro Quartizzolo, e in realtà loro stanno iniziando a pensare di poterlo mandare anche a qualche festival di documentari, cosa di cui sarei veramente felice ovviamente, quindi penso che nelle prossime settimane si farà un po' mente locale e capirà dove mandarlo. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? So che stanno iniziando adesso a fare promozione per la serata di domani, è uscito un breve teaser che dà più o meno un'idea del documentario e poi appunto c'è questa stretta relazione che questo documentario ha con il loro spettacolo, appunto La vita intorno a un tavolo, che in un certo senso cerca di restituire appunto l'essenza di questo spettacolo. Quartizzolo, La vita attorno a un tavolo, al Teatro Biblioteca Quartizzolo a Roma, martedì 29 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Caviglia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi. Con Ascanio Celestini per presentare l'appuntamento, doppio appuntamento a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, 29 e 30 settembre 2020, con Pierino il Lupo e Pulcinella, insieme a Sonino Battista e il Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Ascanio, ben trovato. Ben trovati, a voi. Ci racconti di quest'idea? L'idea è quella di portare in scena queste due opere particolari della musica contemporanea, Pierino il Lupo è un po' un vaso di cristallo, insomma, è un meccanismo sul quale, insomma, è abbastanza difficile mettere le mani, nel senso che funziona perfettamente così com'è. La finalità di questa storia, per il lupo, è quella di raccontare attraverso gli strumenti, raccontare i suoni degli strumenti. Non è neanche una fiaba vera e propria, non c'ha molto della fiaba tradizione orale, né la simbologia, né la metafora, insomma, dei racconti che conosciamo, da Cappuccetto Rosso, Cenerentola, eccetera, eccetera. È proprio, come dire, un gioco per raccontare una storia raccontando gli strumenti musicali. E noi, come dire, cerchiamo di farla in maniera rigorosa, insomma, seguire la traccia per bene, cercando di dargli, insomma, una certa vitalità. Mentre invece il Stravinsky, Cucella e Stravinsky, è un po', da un certo punto di vista, è un po' al contrario. Perché nasce come opera, nasce subito meticcia, spuria, bastarda. Lo stesso Stravinsky va a pescare da altre musiche in maniera poi chiara, ovvia, insomma. Va a pescare da altre musiche per costruire originariamente addirittura una danza e attorno a questo personaggio che invece affonda completamente nella tradizione. Pulcinella è lo sciocco del quale non sappiamo, non capiamo e non vogliamo sapere e capire quanto sia sciocco per davvero e quanto invece sia un servo anarcoide, che appunto che non è neanche soltanto un pezzo di racconto delle classi subalterne, ma scende così in basso per arrivare fino all'inconscio. E di lì, visto che insomma nel Pulcinella e Stravinsky un testo, a differenza che nel Ferire del Lupo di Prokofiev un testo in Stravinsky non c'è, lì io ci metto dei racconti della nostra tradizione orale. Questo connubio con Tonino Battista e l'ensemble? Io spero che sia, come dire, il primo incontro, insomma, anzi da un certo punto di vista anche l'incontro numero zero. Siamo incontrati attorno a due opere che veramente che vanno avanti da sole, che funzionano perfettamente così come sono, e abbiamo cominciato a giocarci dentro. Con la musica hanno preso una strada, un certo tipo di gioco, io col testo ci ho portato un po' del mio repertorio, appunto, dei racconti della tradizione e qualche scrittura un po' più azzardata, e spero, insomma, che sia per primo incontro numero zero per aprire ad una serie di incontri futuri, sempre pensando al teatro musicale e alla musica contemporanea. Per la tradizione dove hai attinto? Ma guarda, dopo 25 anni che racconto fiabe, non saprei neanche più fare delle note bibliografiche precise. Il personaggio Pulcinella, che nel caso specifico appunto in questi racconti è raccontato attraverso tante storie dello sciocco, e queste storie io le ho prese da tanti anni fa, inizialmente da Calvino, al lavoro che ha fatto Calvino per fiabe italiane, e poi scavando dentro Calvino sono arrivato alle origini, insomma, del suo studio sui racconti di tradizione popolare, quindi le tante raccolte regionali da Finamore, Denino, Zanazzo, Pitre, Gonzenbach, insomma, ha attinto in maniera palese, insomma, dichiarata da tanta tradizione orale trascritta, e da lì in poi c'è il lavoro che ho fatto io, diciamo, come ricerca antropologica da antropologo che non si pone, diciamo, l'obiettivo appunto dello studio della cultura, ma della raccolta del materiale bello, diciamo così, fino ai racconti di mia nonna, Giucà, Iucca, Giuà, Verdiello, eccetera, eccetera, delle nostre tradizioni popolari, a casa di mia nonna, a Anguillara Sabbazia, le storie erano più o meno le stesse e il nome era Chicco. Pirino il Lupo e Pulcinella, Ascanio Celestini con Tonino Battista e il Parco della Musica Contemporanea Ensemble a Roma, all'Auditorium Parco della Musica il 29 e 30 settembre 2020. Ascanio, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima! Sì, come si risponde in bocca al lupo per uno che fa Pirino il Lupo? Insomma, il nostro lupo non muore, viene portato allo zoo, anzi un'altra persona viene portato al circo. Per cui in questo caso veramente vive il lupo, anche perché ci serve per due repliche di seguito sto lupo. L'attore Fabrizio Gifuni sul suo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro con il vostro irridente silenzio a Roma, Teatro Vascello, dal 29 settembre al 4 ottobre 2020. Fabrizio, ben trovato. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi. È un lavoro che è nato perché Nicola La Gioia

portare il fantasma di Moro in un teatro ed ascoltare quello che ha da dirci, quello che molti non hanno ascoltato all'epoca. Ecco, insomma, tutto questo devo dire mi appassiona molto. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, ciao, grazie mille, ciao ciao ciao. L'attore Fabrizio Gifuni sul suo studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro con il vostro irridente silenzio a Roma, Teatro Vascello, dal 29 settembre al 4 ottobre 2020. Con Rosanna Fedele, autrice e attrice dello spettacolo Siamo tutte Frida, a Roma, Teatro Arciliuto, dal 1 al 4 ottobre 2020. Rosanna, ben trovata. Ciao, grazie, grazie di questo invito. Come presenteresti questo lavoro? Lo presenterei innanzitutto come un tributo a tutte le donne. Siamo tutte Frida è il titolo, diciamo che è anche un po' interpretabile volendo. Così come per me lo è lo spettacolo. Chi viene a vedere questo spettacolo spero che capisca un po' di più della donna Frida Kahlo più che dell'artista. Io credo molto nell'espressionismo, nell'arte, e quindi che l'arte sia un modo, un'espressione di quello che abbiamo dentro. Questo vale tantissimo ovviamente per questa artista Frida Kahlo, che ha avuto una vita molto intensa di grandi sofferenze e anche di grandi gioie, perché comunque è una delle poche artiste che ha potuto essere famosa ancora in vita. Lo spettacolo è come se narrasse gli ultimi momenti della sua vita, ripercorre quella che è stata un po' la sua storia. Ovviamente non è un'ora e un quarto di spettacolo, non si va a fondo su tutti i temi. Io ho voluto puntare proprio sulla sua sofferenza, ma anche sul suo rapporto con Diego Rivera. Anche qui un rapporto interpretabile, quello che viene definito nei libri un grande amore. Ecco, vediamo fino a che punto era un grande amore, diciamo, comunque una differenza di età molto grande, un rapporto molto travagliato, sicuramente un rapporto molto infedele da entrambe le parti. Quindi anche qui c'è un'interpretazione. È uno spettacolo nel quale il mio mezzo espressivo è sia nella recitazione ovviamente, ma anche nel canto e nella pittura. Io sono una cantautrice e quindi ho scritto anche dei brani, diciamo che è come se fosse un musical, no? Quando il pensiero diventa canzone, sebbene parte dei testi siano liberamente tratti da un monologo scritto da Pino Cacucci, Viva la vita, attraverso i brani invece diciamo che io do un mio pensiero, una mia interpretazione di certi fatti che riguardano la vita di Frida. Siamo tutte Frida, chi verrà a vedere lo spettacolo capirà che anche nella ricostruzione del personaggio c'è un'interpretazione in chiave moderna, ma insomma non raccontiamo proprio tutto, no? Certo. Lasciamo un po' di spazio. Ti posso dire che la regia è di Andrea Rafael Zavala, regista più cinematografico che teatrale. Apro parentesi, anche mio marito, quindi lavoriamo spesso insieme, che ha capito, ha cercato di interpretare anche questa mia visione di questa donna, ed è anche interessante che la regia sia fatta da un uomo quando comunque la narrazione è proprio di un contrasto, no? Tra uomo e donna, di un rapporto complicato, difficile, travagliato, insomma come lo vogliamo definire. L'intero spettacolo è stato possibile grazie a un team, no, di professionisti che hanno creduto in questo progetto, a partire appunto da Andrea sicuramente, ma anche dall'arrangiatore dei brani che sarà con me in scena al pianoforte, Paolo Bernardi, che ha arrangiato i brani scritti da me, ma anche composto delle musiche addizionali egregiamente. Quindi c'è molto molto molto pathos in questo spettacolo. Le scenografie sono studiate da Alessandro Baronio, anche qui ha usato delle metafore, quindi una scenografia molto essenziale, ma di grande impatto, senza parlare poi di tanti partner che sono entrati a collaborare per rendere questo spettacolo possibile, no? Perché quando non c'è una produzione enorme dietro, c'è bisogno che più persone credano in un progetto. E sono sicura che al di là dello spettacolo, che possa piacere o no, chi verrà a vederlo troverà uno spettacolo di buon livello, completo, ben costruito, ben impacchettato. Un musical in versione mignon, come si possa dire. Ci dai i riferimenti web per saperne di più? Al sito del Teatro Arciliuto troverete tutte le informazioni per quanto riguarda orari e tariffe. Sono 4 giorni di spettacolo, ma il sabato e la domenica, 3 e 4, ci saranno 2 rappresentazioni, una alle 19.30 e una alle 21.30. Ovviamente chi conosce il Teatro Arciliuto sa che è un teatro piccolino e quindi le restrizioni dovute al Covid sono garantite, le distanze di sicurezza, quindi chi acquista un biglietto in realtà, tra virgolette, acquista 2 posti, perché adesso accoglierà la metà dei posti, quindi è consigliatissimo prenotare. Siamo contenti di essere tra i primi, diciamo, a tornare a fare un po' di teatro, sperando che qualcuno ci dia fiducia, che abbia la volontà di uscire e venire a provare a rivenire un po' a teatro, perché adesso dopo questo grande fermo sicuramente il teatro, forse come il cinema, ma vorrei dire ancora di più, è stato sicuramente molto penalizzato. Tanti progetti si sono fermati, questo stesso era previsto che andasse in scena ad aprile, ovviamente è stato tutto posticipato. Digitando su internet Siamo Tutte Frida escono con tutti i riferimenti. C'è una parte recitata, c'è una parte cantata e poi ci saranno anche delle performance pittoriche, perché ovviamente ho voluto anche rappresentare questo bisogno di espressione che qualsiasi artista ha nel momento in cui si deve esprimere, anche attraverso la pittura, attraverso il canto, attraverso qualsiasi arte, qualsiasi mezzo espressivo. Quindi diciamo è uno spettacolo molto poliedrico, se si può dire. Siamo Tutte Frida a Roma, al Teatro Arciliuto, dal 1 al 4 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Rosanna Fedele. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vi aspetto e fateci sapere ovviamente che cosa ne pensate. Siamo aperti a tutte le interpretazioni e siamo molto curiosi di sapere che effetto fa. Con Beppe Rosso, coautore e regista della serie teatrale Radio International, a Torino, San Pietro in Vincoli, zona teatro, dal 1 al 31 ottobre 2020. Beppe, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti? Sì, dunque questo è un esperimento che facciamo noi come Acqua Teatro all'interno della stagione di Ferro Terreni Teatro, che è un insieme di 3 teatri, lavoriamo da 3 anni. In rete, ed è un esperimento nato nel periodo del lockdown, abbiamo lavorato, e parla di una radio, ambientato tutto dentro uno studio radiofonico, che è una radio che sta per chiudere, ma contemporaneamente il paese all'esterno sta per cambiare. Durante le puntate mano a mano verranno chiuse le frontiere, il paese muta, ma muta anche la radio e il ruolo della radio. Una delle domande anche sul ruolo dell'informazione, fatto attraverso le vicende dei personaggi che sono i conduttori e i tecnici che sono della radio, è una storia tragicomica, tragica perché parla appunto di un paese che sta mutando, ma anche comica perché i rapporti tra i personaggi, le varie vicende ci sono molto curiose, insomma. È una storia avvenuta in lockdown perché avevamo deciso di proseguire le prove, lo spettacolo doveva andare ad aprile e siccome non si poteva provare avevamo Zoom a disposizione, essendo Zoom non così lontano dal mezzo radiofonico abbiamo cominciato a provare tutti i giorni autori, tecnici e attori e ne è venuto fuori un materiale così ampio, così grande, che a noi piaceva molto, speriamo piaccia anche al pubblico, che abbiamo deciso di organizzarla in 5 puntate. Ecco. Com'è nata l'idea iniziale? È un progetto che nasce all'interno di un progetto più ampio Interreg, cioè tra Italia e Francia, si chiama Migration, e che parla delle migrazioni e logicamente noi abbiamo preso le attuali migrazioni di passaggio sul confine tra Italia e Francia. E l'idea era di farlo attraverso una radio. La radio perché è un mezzo che ci affascina, è più antico se vogliamo come mezzo di comunicazione, ma è ancora molto vivo e può dire ancora molte cose. Quindi questo ibridare il teatro con la radio ci affascinava molto.

l'intero paese ogni qualvolta che si, ma non solo intendo Narni, intendo proprio per l'Italia, ogni qualvolta che in questo momento storico qualcosa rinasce, ci riprova, rivive a prescindere da tutto e da tutti. Circa 25 eventi in 3 giorni, 3 mostre, 2, 3, 4 ottobre, una città straordinaria, bellissima, che ha un percorso medievale, ma attorno poi a delle bellezze naturali, a monti, fiumi, un posto veramente straordinario, dove insieme all'amministrazione stiamo sognando, che già non è, che non è mai qualcosa di scontato sognare. E naturalmente spero di vedervi tutti, compreso te naturalmente. Come era nato il progetto? Noi comunque veniamo da 4 anni di Lunga Vita Festival a Roma, che in 4 anni ha ospitato Daniel Bennacchi, Peter Stein, Emma Dante, in 6 camp, eccetera. Quest'anno riusciva ad arrivare a 6 paesi europei, più la Corea e l'Australia, poi per tanti motivi l'abbiamo congelato, lasciando semplicemente uno spiraglio con l'Australia, con un bellissimo evento che abbiamo fatto a Paladino di settimane fa. Poi ci siamo completamente innamorati di Narni, abbiamo pensato che anche qui si potesse costruire una casa culturale. Da lì abbiamo trovato, come sempre, il sostegno degli artisti, degli operatori, di tutte le persone che come noi e con noi credono nella bellezza sempre e comunque. Quali sono stati poi i criteri di scelta artistica? I temi fondanti di quest'anno sono i nuovi linguaggi della scena contemporanea, tanto è vero, abbiamo Emma Dante, Serra, ma anche un percorso di organizzazione legata al teatro e allo spettacolo in genere. Infatti la metà degli eventi sono completamente gratuiti, con narrazioni, la Moving Beat Company, che è una compagnia di danza che seguo tantissimo in piazza, Mistero Buffo con la regia di Allegri, completamente gratuito, No dei Sapi, un progetto musicale estremamente bello, ma ancora Chiudiamo le scuole di Giovanni Papini, che è un testo per me lungimirante, a prescindere da quando è stato scritto, Semi, un progetto con l'infanzia, e poi ancora Monio Vadia, che all'alba, se il tempo ce lo permette, altrimenti troveremo tante strategie per farlo noi, per noi, per metterlo al tempo. Alle 6:30 del mattino, davanti a un'alba straordinaria, racconterà una favola. Una favola che in fondo poi questa è la nascita di tutte le cose, un uomo che racconta un'altra cosa, un altro uomo, e lì nasce il teatro, nasce l'educazione civica, nasce il senso della comunità. Questo è forse il tema fondante di tutto, ma in tutto in generale quello che tentiamo di costruire, il senso della comunità, con tutte le forme, con tutte le divagazioni, con le tecnologie che avanzano, come Elio Germano che porta la mia battaglia in uno dei primi esperimenti europei fatti in realtà aumentata, nello sviluppo artistico di Pietro Lama, che è un artista metastrale tra la musica, le nuove tecnologie e la danza. Però attorno a tutto quello che il tempo cambia e cambia noi, il senso del civico, il senso della comunità, in quel seme comunitario che il teatro vive e lascia vivere la bellezza di tutte le cose. I luoghi del festival? Sono tantissimi, il teatro, la loggia dei priori, piazza dei priori, ma uno spettacolo di Fanny Alexander che vengono dal premio UBU di quest'anno, che si sviluppa dentro la sala consiliare proprio del comune, passando per un'altra sala del teatro, quello che era definito il vecchio bar del teatro, per passare poi in strada, per passare poi nell'auditorium, che sarà uno degli spazi centrali, l'auditorio di Narni, che è una chiesa straordinaria, costruita su quello che è Narni sotterranea, qui con un grandissimo restauro, quindi vive di tutto quello che sono le bellezze medievali, è infatti un'ex chiesa principale della città prima che venisse costruito il Duomo. Ma ancora la latitudine, gli spazi interni, e questi sono solamente alcuni di quelli che poi riusciremo a sviluppare l'anno prossimo, perché l'obiettivo è quello di invadere ancora di più la città, il borgo di Narni, creando un festival diffuso e sempre più che sposa la propria opera d'arte con l'opera d'arte paesaggistica e architettonica dello spazio in sé. Ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? A Lunga Vita Festival ed è tutto quello che è il mondo Lunga Vita, ed è comunque dove potete sempre andare a vedere quello che facciamo, come LVS. I contatti però di questa edizione sono narnicittateatro.com, Facebook che è narnicittateatro e Instagram, giusto per rimanere in tema, @narnicittateatro, per non farci, per essere molto fantasiosi appunto.